parti in sogno. Questo dolore che non dà piacere rifinisce in incubo, rifinisce un incubo in cui, cucito su un catafalco, ti rimpalmano alle dure convenienze con convolvoli di convenevoli cucinati agli astanti, convolando a nozze astemie. E presto via dagli astanti astenici e sbigotti via verso conventi di detenuti astenuti per un punto alla perdura. E da capo ti ridiventa duro e disperato, lo nascondi fra le cosce grosse, ti fai mostro di femmina ingravidata a nozze, in coalizione con la morte di certe parti, inquinati inique. Corte le braccia mie a penzoloni lungo, una svolazzante sottoveste candida, mettono in croce il cimitero dei canini miei famigli fra gli artati bisbigli di riprovazione degli astanti in sbadigli. Suppura così una grossa privazione? È vero, siamo piuttosto figli che padri e madri intramurati da guaiti nottambuli, ambulanti finiti sulla carrozza cimiciosa di un treno camicia di forza pel breve tempo di elemosinare, finti sordi sul treno desiderio che prendo per non sentirmi sola, con la scusa di venire da te per stare finalmente un po' sola. Scusa se il controllore zoppo che sorride solo per amor di divisa m'affaccia diversa, divarica un panorama di viso dai tuoi goffi preamboli, l'imbarazzo di te che ti diverti alla facciaccia dei miei graziosi vaffanculi, allor quando ti scusi e giri il culo e te ne vai per diversivo rassegnando losche dimissioni. Questo dolore quando dava piacere era lardo che colonna, era un vezzo riflesso ladro d'oro tra vetrine di mercerie smeriglie, di colate di bagnoschiuma vermiglio e detersivo smeraldo per lavastoviglie, avvezza alle macerie d'ora in ora, avvizzisco come la stretta contrita svanisce alla promessa che dismette le mani in frantumi, sbrecco di piatti in ira al tutto tondo, divezzami dal cazzo che gongola scavezzacollo, divorziami, scavezzami dalla promessa permalosa della specie che cigogna, stufi mammiferi da zoppica cicogna e babbi babbuini dispersi al largo della mente.